Radio 24 Reportage. Paolo Nespoli, un italiano nello spazio, di Gigi Donelli. 3, 2, 1. Una missione di 6 mesi nell'orbita terrestre a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È l'ultima grande sfida personale di Paolo Nespoli, 53enne lombardo, da 20 ormai impegnato nella squadra degli astronauti europei. 6 mesi sono lunghi e quando penso a 6 mesi anch'io mi gratto un attimino la testa pensando: accidenti. Effettivamente, caro Nespoli, c'è di che farsi delle domande. Questo a meno di 70 giorni dal lancio. L'ex parà del Libano, amico di Oriana Fallaci, si prepara insomma a passarne almeno 180 in orbita all'interno dei 1200 metri cubi della stazione. Per lui è un ritorno nello spazio, nell'orbita terrestre, dove è stato per 15 giorni nel 2007. Ne abbiamo parlato allo European Space Research and Technology Center, ESTEC, come lo chiamano tutti, questo l'acronimo, è il principale centro di ricerca e sviluppo dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che si trova a Noordwijk, in Olanda. A farci da guida nel mondo del volo abitato, quindi insomma quello degli uomini e delle donne che indossano la tuta blu dell'ESA, la direttrice del programma Simonetta Di Pippo, prima donna al quadro comandi delle operazioni spaziali a livello internazionale. Ma innanzitutto è il primo italiano che fa una missione di lunga durata, e questo chiaramente in un momento importante per i discorsi che stiamo facendo di estensione, di possibile estensione della vita operativa della Stazione Spaziale Internazionale, essendo l'Italia uno dei paesi principali in supporto alla Stazione Spaziale Internazionale. Chiaramente il fatto che ci sia un italiano che passerà 6 mesi sulla stazione aiuta anche a, come dire, distribuire l'informazione presso il pubblico di quanto è importante lo spazio nella vita di tutti i giorni. Già, quanto è importante? Ma sai, questo è un discorso interessante che facciamo spesso, e ci chiediamo se magari un giorno potessimo decidere di fare il giorno dello spazio e spegnere tutti i satelliti e tutte le attività relative allo spazio, per far comprendere ai cittadini quanto effettivamente lo spazio permea le nostre giornate, cioè quanto noi in realtà utilizziamo, da quando utilizziamo appunto il navigatore satellitare in macchina, o quando guardiamo la televisione una partita di calcio, giusto per fare degli esempi, diciamo, della vita di tutti i giorni, quanto appunto le attività spaziali sono di supporto alle nostre attività sulla superficie della Terra. Ed è proprio la finestra di un satellite che usiamo per parlare con Nespoli in questi giorni, impegnato a Houston, in Texas, per la sua preparazione americana. Poi sarà a Colonia, a Monaco di Baviera, infine naturalmente in Russia, da dove sarà lanciato a dicembre. Questa sarà la prima missione di lunga durata di un italiano, ma ce ne saranno altre, e 6 mesi sono lunghi. Però mi dicono tutti, specialmente quelli che tornano, che alla fine questi mesi passano in un battibaleno, perché sono veramente compressi ed hanno attività che cominciano la mattina e finiscono la sera, e alla fine c'è addirittura poco tempo per fare tutto quello che si deve fare, e sulla stazione abbiamo veramente tanto da fare. Immagino che ogni tanto prenderò un pochettino di tempo libero per staccarmi un attimo. Mi dicono tutti che la vista dalla cupola è assolutamente straordinaria, e quindi cercherò sicuramente di guardare laggiù, e per finire resterò in contatto con la Terra. Abbiamo delle comunicazioni settimanali che facciamo con la nostra famiglia per tenerci aggiornato su quello che succede, sono addirittura delle videoconferenze, ma abbiamo anche la possibilità di fare delle telefonate. Abbiamo un telefono a bordo nel quale noi possiamo chiamare, e sicuramente chiamerò tutti i miei amici e conoscenti e li sorprenderò con una chiamata dalla stazione. Durante la missione STS-120 del 2007, Nespoli fu battezzato Maverick per la sua capacità di risolvere gli imprevisti. una virtù che potrebbe tornargli utile sia durante il viaggio nella Soyuz, dalla Terra alla stazione, viaggio che farà in compagnia di un comandante russo e di un'astronauta americana, e soprattutto durante la lunga permanenza in orbita, quando l'adattamento è davvero tutto. Beh, sai, fare il mestiere dell'astronauta è abbastanza strano, perché alla fine io sono di educazione un ingegnere, e mi piace pensare di riuscire a guardare una macchina e capire il funzionamento e addirittura a capire come potrebbe lavorare meglio. Ma in questi mesi hai ragione, perché mi sono trovato a fare delle cose veramente strane. Per esempio, una delle cose più strane che ho fatto è che ho dovuto prendere la qualifica di CMO, che è Crew Medical Officer, ovvero una specie di quasi medico, perché in orbita non abbiamo un medico e non c'è l'ospedale, quindi se succede qualcosa, specialmente una cosa pesante per la quale bisogna intervenire subito, occorre qualcuno che riesca a fare queste cose. Houston, we have a problem. Mi hanno mandato per una settimana a uno degli ospedali principali qui a Houston per fare addestramento nel campo medico, e devo dirti che dopo 20 minuti di lezione teorica mi sono trovato in sala operatoria vestito di tutto punto in bianco, con mascherina, occhiali, guanti e tutto, a intubare un paziente e a cominciare questa settimana, che è stata estremamente interessante. Poi siamo andati poi a vedere le questioni dei denti, ho estratto 24 denti, tutti da manichini. Abbiamo addirittura fatto dell'addestramento pesante su dei cadaveri, perché ci sono delle cose che devi saper fare e non puoi fare su una persona viva. E quindi niente, mi trovo a imparare tutte queste cose e essere meravigliato di cosa si può veramente fare se si ha la possibilità. E tutto questo senza mai dimenticare il mondo che brulica intorno agli astronauti per assicurare il buon esito della missione. Abbiamo 9 User Support Operation Centers, centri distribuiti in Europa che si occupano proprio di supportare, di aiutare la sperimentazione scientifica. E abbiamo un numero elevato di scienziati in Europa che si occupano appunto anche dell'analisi dati dopo l'effettuazione degli esperimenti. Ma abbiamo anche centinaia di persone che in Europa aiutano l'astronauta nelle sue attività in orbita. Questo nella fase di routine, cioè quando non ci sono problemi. Ma le relazioni internazionali, qualche debris che ogni tanto ci grazia del suo passaggio lontano dalla stazione, ma che comunque richiede delle procedure, diciamo, precauzionali sulla stazione. Attività in extraveicolare che debbono essere comunque compiute per sistemare alcune questioni tecniche, magari per preparare l'arrivo del prossimo volo shuttle o della prossima missione Soyuz. È interessante dal punto di vista anche della capacità che hanno raggiunto i 5 partner di lavorare insieme, perché poi abbiamo un centro di controllo in Europa, uno negli Stati Uniti, uno in Russia, uno in Giappone, eccetera, e dobbiamo trovare sempre un orario che sia compatibile con i vari luoghi sulla superficie della Terra. E quindi spesso gli americani chiamano queste riunioni alle 6 del mattino, che per noi è mezzogiorno, ma perché per i giapponesi è più o meno l'ora di cena. Questa cosa è interessante perché dà un po' anche la dimensione di quanto sia complesso e quanto per riuscire poi a portare avanti una missione con un astronauta europeo, ma non solo, quando ci sono comunque 6 astronauti permanentemente a bordo della stazione, questo richiede un coordinamento, una capacità di comprensione anche dei problemi degli altri. E questo è un grande successo di per sé. Quando la stazione spaziale l'abbiamo iniziata non c'era questa capacità di comprendere diciamo gli uni gli altri, e non c'era nemmeno questa grossa tendenza a cercare sempre di vedere il problema non personale, ma il problema della stazione, quindi della cooperazione. 3, 2, 1.